d'amore. Sei carta nuda e sei in pericolo, la riga che ti suda, la mia palma già t'annusa, e va da destra a sinistra fra i tuoi fiori e quadri tecnicamente. Sei poverina, anzi come dico a Nuoro la mischina, mortificata da un appesso di una piuma che non può sentir ragioni. Sei polverina in bustina per acqua cristallina. Suona l'allarme se si avvicina la mia stretta con in pugno la mina, e fai scenate da ictus, manicomi, mimi con le mani, mica mi capisci, no. Sei parecchina e quando passi tu la gente sull'erba mica ci cammina. Sei cioccolatina, sei una cingomma nella Coca-Cola perché era l'ultima aspirina. Un'altra lattina che mi curo l'ascesso, risciacquo, poi sputo l'eccesso. Yes, yes, sei stella marina, hai le punte ma non tagli, scrivi tagli, punti tagli. Le mie parole sono aghi bollenti nella carne che mangio, nella carne che va a comporre la mia carne. Sono fitte fra i denti con cui mangio la carne che va a comporre le parole che immagino, immagini. E leggo solo se mi fa riflettere, oh. E guardo la TV solo se perdo tempo, oh. Non guardo la TV perché non perdo tempo. Miau. Sei ancora viva, ora che hai già sperimentato la paura. Sei stata vittima della cura e ti rivolti, eviti i miei sguardi. Speri che non ti penetri, speri che non pensi. Speri che non mi ispiri più niente, non aspiri più a niente, non respiri per niente. Non fare lisci su fogli lisci, gravo parole negli interstizi. Non fare capricci, non è pubblicità, è anima. Non è hardcore, è underground, vita vera da Nuoro City. Se sei coperta spogliati, ma se sei carta nuda, sei in pericolo, la riga che ti suda, la mia palma già t'annusa, e va da destra a sinistra fra i tuoi fiori, quadri tecnica mista.